La versione di Oscar, Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori Radio 24, 16:34, primi 32 secondi. Grazie a chi ne ascolta, chi ci scarica e ci sente quando può e quando vuole. Il tema del giorno è obbligato, credo che anche domani apriremo i microfoni per sentire come la pensate all'indomani dei 35 arresti avvenuti ieri per il Mose di Venezia, dopo poche settimane dagli arresti di Expo a Milano, il copione intramontabile delle mazzette e delle tangenti sui lavori pubblici. Quindi chiamateci pure 800 24 00 24 per dirci come la pensate. Prima di andare all'ospite, vi dico in 45 secondi come la penso io, quello che ho già scritto stamattina sul Messaggero Mattino. E so che molti più dicono via nuovi controlli, Cantone, la super autorità della corruzione, Superman. Renzi stamattina al G7 ha detto le regole ci sono, il problema sono i ladri. Ecco, la mia analisi dopo tanti decenni in cui continuiamo a scandalizzarci ogni retata di arresti è un po' diversa. Io non credo, lo ammetto, non credo che la risposta a questo problema sia un livello aggiuntivo di controlli. E credo che invece, rispetto a quello che dice Renzi, non è una polemica con Renzi, posso sbagliare, ma io penso che non è che le regole ci sono e poi il problema sono i ladri. Io penso che le occasioni di latrocinio, le improprie commistioni tra manager pubblici, politici, impresa e finanza, come in questo caso, addirittura magistrati della Corte dei Conti, come in questo caso, secondo le indagini della Procura Venezia, derivino proprio dalle regole che ci sono, e che quindi non è che ci sono le regole e quindi il problema sono i ladri. I ladri vengono anche e proprio dalle regole che abbiamo. Perché? Perché in decenni abbiamo visto che il proliferare delle norme italiane, il codice degli appalti, con le conferenze di servizio, le impugnative amministrative, rendono impossibile le opere di un certo livello nel nostro paese. La politica negli anni ha detto va bene, allora facciamo delle liste speciali, no? Ricordate la legge obiettivo di Berlusconi, poi è diventato il protocollo infrastrutture delle opere speciali, anche lì poche decine, no, sono diventate centinaia anche quelle. Allora stesso problema, con le norme ordinarie non si riesce a fare, cosa facciamo? Ci inventiamo i veicoli speciali, come avvenne con la protezione civile all'Aquila, come è avvenuto per il Mose a Venezia, ed ecco che a quel punto la foresta normativa di cui queste cose sono figlie e il sovrapporsi di controllo, quello della magistratura amministrativa, quello della magistratura civile, quello della magistratura penale, ogni procura in Italia ha indagini aperte su gare pubbliche e lavori, e ogni procura, ecco, a quel punto la foresta normativa con le sue frasche che cosa fa? Allontana, secondo me, i più degli onesti, delle imprese che vorrebbero lavorare in trasparenza, concorrenza, con regole chiare, mentre attira sotto le frasche la parte pubblica, che più ci sono risorse garantite a quel punto per le opere prioritarie e magari opere che sballano rispetto alle previsioni. Tenete conto che il Mose doveva costare l'equivalente di 800 milioni quando nacque il progetto negli anni 90, siamo a 5.2 miliardi per l'80% dei lavori, quindi arriveremo a 7 miliardi e di fronte a questi flussi ecco che c'è la facoltà per chi agevola imprese che a quel punto cercano la via diritta, no, la via non diritta per lavorare, ma ecco che il politico, il manager pubblico trovano i modi non solo per le gare, per aggiudicare i lavori e per fare una ricca provvista. Ecco, la risposta a tutto questo secondo voi è aggiungere a tutti i livelli di controlli che ci sono quello di Superman Cantone, che non ha neanche nessuno al suo fianco nell'autorità anticorruzione fino a questo momento? Io credo di no, credo, e ho concluso, terapia radicale, che non avverrà mai nel nostro paese. Io penso che bisogna separare lo Stato e la pubblica amministrazione da ciò che in questi decenni ha dimostrato di non sapere fare, cioè di gestire l'aggiudicazione delle gare, uno, due, di gestire direttamente con veicoli pubblici l'avanzare dei lavori pubblici, meccanismi di gara aggiudicati da commissioni indipendenti, terze, non nominate da periti amici dei partiti, in altre parole, con privati che a quel punto si aggiudicano la gara e diventano molto più responsabili di oggi del financing, cioè dell'anticipo delle risorse per andare avanti i cantieri con le banche dietro, e il pubblico che resta responsabile, quello sì, non del financing, ma del funding, del costo finale, se gli standard pubblici che a quel punto sono stabiliti con tempi però certi, non quelli incerti delle regole amministrative di oggi, alla consiglia dei lavori lavoratori portano un lavoro ben fatto e in trasparenza. Lo so che voi direte, ma come, bisogna estromettere il pubblico invece di avere più pubblico? Però il pubblico, per come è organizzato, secondo me è la fonte del problema. Posso sbagliare e sicuramente sbaglierò. Per questo abbiamo chiamato oggi a parlarci dal loro punto di vista il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, Paolo Buzzetti, che ringrazio di essere ai nostri microfoni. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio a lei e a tutti, grazie, buonasera. Si figuri, sappiamo, premessa obbligata, le costruzioni sono in Italia il settore che ha più perso in questi anni di crisi, siamo al 40% del valore aggiunto, strage d'impresa, dovrebbe essere un settore che risponde alla crisi, invece noi l'abbiamo reso più ciclico della crisi ciclica italiana e ne abbiamo parlato tante volte. Che effetto fa all'Associazione Nazionale Costruttori Edili dopo l'Expo in Mose? Infatti fa un effetto di grande ovviamente, da una parte, come dire, angoscia, e dall'altra però ovviamente bisogna reagire, proprio perché tantissime imprese chiudono e stanno in difficoltà, e poi in sé, naturalmente aspettiamo ovviamente tutte, come sempre, le indagini la magistratura farà, ma gli sprechi ovviamente, questo sistema che non funziona ovviamente non possono che non essere accettati. Io sono d'accordo con lei sul primo punto, nel quale dice che non servono più leggi, altre leggi, e non servono più controlli, perché ce ne sono a sufficienza, anzi forse sono un po' troppi. La prima cosa... No, ma aspetti, chiariamo questo, perché sennò chi a casa equivoca, perché volete, dice no, non volete i controlli. Il problema è che forse... Ecco, perché il problema è che troppi controlli significa che nessuno è efficiente e a quel punto c'è qualcuno che sta da fare per aggirarli. Questo in realtà è il punto. Perché la verità è che, adesso esagero per semplificare, in realtà questi controlli poi non ci sono. Ecco. E rischiano di effettuare invece un rallentamento costante delle cose, perché purtroppo, e qui lo dico a favore del povero amministratore pubblico, che negli anni è stato delegittimato e pur caricandosi di tutte le responsabilità non ha avuto più l'adeguata copertura rispetto al voler fare le cose e andare verso l'obiettivo, e si è ormai nella stragrande maggioranza dei casi portato ad avere la verità formale delle carte, cioè il cercare che sia tutto a posto, non il fatto di andare veramente a realizzare la cosa. E io ho nostalgia da questo punto di vista dell'ingegneria, ingegnere capo di un tempo che decideva e che aveva la forza, e oggi di non può, non può. Oggi non può, e non potendo preferisce la verità formale delle carte, quindi ci sono i ritardi, quindi tutto si rallenta, e si rallenta anche nella fase di programmazione, specialmente su grandi eventi che hanno delle scadenze che pur si sanno da sempre, e questo rallentamento ci fa arrivare col fiato corto di corsa al momento poi di andare in deroga alle regole sulle gare e che naturalmente ha facilitare con i mille ostacoli l'avvenire di quello che purtroppo poi avviene, esatto, con la corruzione. Allora, questo è l'elemento centrale, diciamo, dell'amministrazione, e secondo me è inevitabile, ma ci torno fra un secondo, il rafforzamento da questo punto di vista, ma non servono altre leggi, non servono altre norme, io sono, diciamo, ai principi di Beccaria, e quindi non credo che serva chissà che cosa, serve far rispettare quelle che ci sono, e purtroppo poi sono gli uomini. L'altra cosa molto importante volevo dire è che diciamo da sempre, non servono strutture speciali, ci sono le strutture dei comuni, le strutture delle regioni, le strutture dello Stato che fanno queste cose da sempre. Noi non siamo come gli anglosassoni, gli americani, si inventa un'agenzia di scopo e fanno la grande cosa. Che è la cosa che vorrei, ho capito cosa sta dicendo. Non siamo capaci. Quindi d'accordo, però, presidente, questo Oscar solo. Sì. Il fatto di usare le amministrazioni ordinarie con le procedure ordinarie è dal 1860 che siamo in ritardo e che siamo costretti, sì, a grandi però, di intervento. E allora, aspetti che la devo fare una domanda su quello che sta dicendo, non lo voglio non far parlare, al contrario. Massimo Cacciari, sindaco di Venezia per anni, e che per anni oggi sui giornali erano giustamente pieni delle sue parole, perché lui ci ha provato da sindaco, ancora da prima che facesse il sindaco, il primo e il secondo mandato, e poi ci ha provato da sindaco, in costanza di sindaco, ha raccontato quando c'è stato ancora l'incontro, il governo Prodi e così via, che non lo hanno fatto parlare. In quel caso, come nel caso di Expo, quando sono scattate le deroghe per i ritardi a cui si era arrivati, e sono scattate le deroghe ed è avvenuto quello che è avvenuto, e Cacciari dall'inizio ha tentato di spiegare che il consorzio Venezia Nuova, cioè un veicolo speciale rispetto a quello che lei dice, cioè il sindaco, i poteri ordinari e così via, tutta questa storia dei veicoli speciali, dice Cacciari, quando io ho provato a dirlo, mi sono venuti addosso dicendo: ah, ma allora tu non vuoi fare niente. Ecco perché io dico, lei ha ragione in teoria, ma in pratica ci inventiamo i veicoli speciali per fare più in fretta. I veicoli speciali sono quelli che in deroga coprono con le frasche di questa eccezione pubblica all'impossibilità che deriva dalle norme pubbliche ordinariamente, ma a quel punto coprono i facilitatori pubblici che beccano i soldi, fanno provvista, politici, manager pubblici e privati che sono a quel punto purtroppo collusi. Come si esce da questo? Corretta, ma si esce da questo responsabilizzando, e nel senso che se sbagli paghi, nel senso che te ne vai da dove stai oppure ne paghi le conseguenze. Se tu amministratore arrivi su un evento che è noto da tantissimo tempo in ritardo, e tu anche politico paghi se per caso fai arrivare in ritardo, che puoi essere quello che vuoi come carica, ne sei responsabile. Rimettiamo questo criterio di catena di responsabilità per arrivare a fare le cose nel tempo giusto, non di corsa, perché quando arrivi di corsa poi ci ricaschiamo sempre, perché il MOS è roba che si trascina tantissimi anni, ma l'Expo è qualcosa di più moderno con tutte le nuove norme a disposizione. E per questo dico che non è questione di norme, di leggi o di inventarsi qualche legge ulteriore, ma è semplicemente adottare quelle che si hanno, ridando però le giuste responsabilità. Questo è il vero segreto per poter fare un passo avanti. Poi certamente non sono nemmeno d'accordo però, Oscar, su quello che lei dice di dare ai privati il pallino in mano. No, io dico gare fatte da competenti non indicati dai partiti, dagli assessori, dai ministri e così via. Vabbè, il meccanismo delle gare. Ma questa è come dire che, per esempio, per me i direttori generali delle ASL non dovrebbero essere nominati dai politici e dai partiti, sennò succede come in Lombardia e come in Mezza Italia. Il meccanismo delle gare è fondamentale, perché qui con la scusa che le gare non riusciamo a farle per inciso, quello è uno dei motivi per cui poi ci sono i veicoli speciali in deroga dall'Aquila a Venezia e succede quello che succede. Adesso noi abbiamo i 60 secondi di strada e poi torniamo con Paolo Buzzetti, presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Fatemi dire solo che io sono garantista, non è che sto dicendo, però certo l'avete ascoltato su Radio 24 ancora ieri sera, Cruciani che vi mandava le dichiarazioni di Galan, che aveva il conto in rosso di 300.000 euro, e poi leggiamo sui giornali quello che leggiamo. Se è vero quello che leggiamo sui giornali, Galan capito? Cioè, non si tratta di essere giustizialisti, c'è proprio un incolmabile abisso tra la condizione di milioni di italiani che non riescono ad arrivare a fine mese e si sentono dire da un politico io c'ho il conto in rosso di 300.000 euro, e poi leggi l'indomani questa roba che leggi del milione. Io non lo so se sia vero, dico solo che è una cosa che fa fremere, e quello che temo, Buzzetti, è che si rafforzi solo il partito di chi, stufo, indignato, dice: queste opere così non le facciamo. E sono tanti milioni in Italia ormai a pensarlo, chi vota Grillo, non solo loro, tanta gente a cui non è che possiamo dire sbagliate, dobbiamo convincerli che si può fare questa roba senza che ci siano i politici, ma i manager pubblici, i consiglieri della Corte dei Conti che ciucciano i soldi che noi non abbiamo e che escono pure dalle nostre tasche, tra l'altro. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta, 16:48, primi 47 secondi. Molti mi rimproverano di non aver citato le parti politiche. E che devo citare? Il sindaco era del PD, Galan del PDL, l'assessore regionale alla giunta di centrodestra, l'ex parlamentare non rieletta e anche lei di centrodestra. È una cosa bipartisan, purtroppo. Del resto, le cupole in funzione a Milano, di cui indagano a Milano, anche quelle sono bipartisan. I contatti che escono fuori, perché poi mica ci sono solo queste vicende, da Carige, banca verso la quale io sono stato critico per Banca Italia, che doveva essere molto più dura molti anni prima, perché era l'equivalente a destra di MPS con una cricca che spogliava la banca, secondo me era abbastanza evidente guardando l'inattendibilità dei conti, anche lì hanno contatti bipartisan. Qui ragazzi, non ci sono più i vecchi partiti della Prima Repubblica che pretendevano in quanto partiti le tangenti su moltissime cose, però ci sono cricche di persone a cavallo con pezzi di amministrazione pubblica, finanza privata. Io Meneguzzo in Veneto, stiamo parlando di fior di finanza privata. Non faccio il giustizialista, ma questo è quello che abbiamo sotto gli occhi. Allora, i messaggi ce n'è una raffica tale, devo dire che i più li raggruppo, ma propongono la tesi che la risposta deve essere penale, decenni di carcere per i politici e manager pubblici corrotti e per i privati. Io non lo so se questa è la cosa, però prendo atto che questa è una reazione fortissima. E molti dal Veneto che ci raccontano altre cose, il commissario di Veneto Strade e così via, ma noi ci torneremo anche domani nei prossimi giorni su questo tema, quindi non vi preoccupate. Sentiamo Pasquale da Firenze intanto che cosa pensa. Prego Pasquale. Salve, buonasera. Volevo dire che ho riscontrato in questa ultima retata che c'è un felice connubio tra più poteri dello Stato, mentre prima erano quasi solo i politici, quasi sempre solo i politici a fare il bello e il cattivo tempo. Questa volta ci sono anche delle discrete autorità, c'è la finanza, c'è il magistrato delle acque, e quella situazione complica notevolmente la cosa. Allora, la soluzione di una problematica di questo genere è molto complessa, perché mi rendo conto che dove ci sono le concentrazioni di denaro, sì, si crea la cassetta delle offerte da cui tutti traggono dei vantaggi. E c'è una forte resistenza da parte dello Stato a delocalizzare certe situazioni. Faccio un esempio, per esempio nelle energie alternative, a nessuno viene in mente che sopra i tetti di ogni casa ci possono stare i pannelli fotovoltaici, e viene meglio in mente di fare i parchi eolici, che sono un centro di concentrazione del denaro, no? Invece se si facessero... Pasquale, su questo non abbiamo tempo, ma ti vorrei interrompere dicendo che ci sono parti intere di sud in cui evidentemente il fotovoltaico è stato un ritorno allo sfruttamento di una rendita agricola depressa con molta malavita dietro, però abbiamo letto molte indagini. Però adesso non ti voglio interrompere su questo, concludi? Concludo col dire che bisognerebbe semplificare un attimino altre situazioni per consentire la concentrazione dei controlli su queste cose. Sì. Se si crea una moneta elettronica si elimina la microevasione fiscale e la finanza, piuttosto che stare dietro ai bar, può concentrarsi su queste situazioni di sommerso e di elusione. Capisce? Questa è l'unica via, perché può inasprire le pene quanto vuole, ma i ladri ci saranno sempre. Allora pensa Pasquale, no ti interrompo perché devo andare altre telefonate, sì. Pensa Pasquale che solo grazie a una convenzione firmata 4 giorni fa tra la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, solo grazie a questa convenzione finalmente sta stato annunciato che pezzi diversi dell'amministrazione dello Stato possono fare indagini sul pubblico per i pagamenti, perché prima se le dovevano fare ciascuno per i fatti loro, quando abbiamo tutte le banche date incrociate. Questo per dirti, Pasquale, di quanto poi lo Stato sia indietro a indagare innanzitutto sui pagamenti. Tu dici giustamente, no, la moneta elettronica nei pagamenti pubblici dovrebbe essere la prima regola fondamentale. Pensa, non c'era neanche la convenzione per fare cooperare nelle indagini l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Sentiamo Giovanni da Padova, prego Giovanni. Sì, buonasera. Io volevo soltanto intervenire a riguardo quello che ha detto adesso il signor Pasquale. Sì. La moneta elettronica mi può stare anche bene, ma qui parliamo anche di fondi neri. Sì. E quindi si parla di fondi estero su estero. Sì, sì. Io sono per l'inasprimento della pena e la certezza della pena, perché altrimenti non ne verremo più fuori. Se questi signori, e io sono padovano, ok, quindi la sento molto, certo, mia questa cosa, capisco. Mi vergogno io per questi amministratori, perché Galan, che è di Padova come me, io mi vergogno, ma mi vergogno non per Galan come uomo, mi vergogno per Galan come politico che rappresenta un pezzo di Padova, un pezzo di Veneto. E quindi, ripeto, questo signore, con tutti i crismi, per carità, della certezza della pena, per carità, ma fatto salvo che fino a prova contraria è innocente, sia ben chiaro, ok, ma va punito. Non dico di Galan come persona, questi signori vanno puniti, vanno... No, perché per essere chiari, Lia Sartori, cioè che l'europarlamentare non rieletta, anch'essa nella retata indagata e così via, lo sappiamo, tutti quelli che sono occupati di sanità pubblica sanno che era, diciamo, una delle pedine fondamentali per la nomina dei direttori generali delle ASL in Veneto ai tempi di Galan, e anche lì sarebbe molto da dire. Per me quello è il meccanismo da smontare. Torniamo al nostro ospite Paolo Buzzetti, che ha imprese che soffrono e che di sicuro non si beccano un rimbalzo positivo per l'effetto di queste opinioni pubbliche diffuse, no, che naturalmente hanno anche il dito puntato contro le imprese. Questo è il punto. Certo, però diciamo siamo in un momento in cui dobbiamo fare un salto di qualità per i nostri figli, per noi stessi. Diciamo adesso basta ricadere sempre in questi ragionamenti e discorsi, perché vuol dire sennò che non riusciamo a cambiare. Io provo a dire molto rapidamente, sì, i punti su cui si potrebbe agire, cioè, ma cosa si può fare? Sì, esatto. Allora, primo, basta, questo lo si può fare, a creare strutture artificiose sui corpi dello Stato esistenti. Ci sono i comuni, le regioni, i provveditorati, lo Stato, facciamo le cose con le strutture ordinarie. Okay. È un primo punto fondamentale. Secondo, ridiamo, quindi semplifichiamo, quello che diceva l'ascoltatore Pascale ha perfettamente ragione, più corpi dello Stato, semplifichiamo e non creiamo nuove leggi e nuovi passaggi, i controlli ci stanno, applichiamo quelli che ci sono, le dico solo una cosa, ci sono montagne, metri cubi di carte, sì. Decine di firme che l'impresa presenta per fare una gara, dopodiché non le guarda nessuno, mi faccia dire questa botta forte, sa chi le guarda? Il secondo arrivato per fare ricorso al primo. Bisogna finirlo con questo esatto, meccanismo. Allora, più potere naturalmente all'amministratore, viva l'ingegnere capo, vado per titoli, certo. Sistema di gara dove c'è da scegliere un progetto, quindi c'è da dare un giudizio di qualità, si deve fare come facevamo, si faceva, insomma, gli esami liceali, che c'è la commissione esterna, cioè le amministrazioni che fanno la gara non possono nominare chi decide, Claudio. In un elenco nazionale, Claudio, o regionale di persone di provata correttezza che vengono estratte per fare i commissari di quella gara, Claudio, e poi questo qualche cosa farebbe di modo sicuramente. Dopodiché infine dobbiamo naturalmente fare, cioè già dal 2012 la disposizione, mettiamo online i dati, uno fa una gara, un lavoro, si dice quant'è l'importo all'inizio e quant'è l'importo alla fine, perché guardi che nella gran parte dei casi tutt'al più si recupera un po' di ribasso d'asta, non ci sono tutti questi lavori che prendono 5 volte, 2 volte, 4 volte, 6 volte l'importo iniziale, sono solo in alcuni casi, quindi la trasparenza conviene alla stragrande maggioranza delle imprese e delle amministrazioni, dando con chiarezza questi dati, oggi è possibile tecnologicamente, controlliamo i cantieri e i lavori. Io sono a rilanciare contro quello che hanno detto Alesina e Giavazzi, io rispetto, sono grandissimi studiosi, oggi sul Corriere, che non servono le opere pubbliche. Io a questo non mi arrendo, non mi arrendo a un paese col dissesto del territorio, a un paese con le scuole che cadono a pezzi, a un paese senza le infrastrutture. Su questo la penso come lei, a dire la verità. Sbagliata. Sì, e allora adesso litighiamo su tutto una volta per tutte e arriviamo alle soluzioni. Le cose vanno fatte con trasparenza e correttezza da paese civile, naturalmente la perfezione non ci sarà. Allora, i grandi programmi che si possono lanciare nello stile dei programmi che lo Stato italiano bene o male ha sempre fatto dal 1860 per recuperare i ritardi, sono un grande programma scuola e un grande programma sul dissesto del territorio. Io dico che si possono fare con trasparenza. Ok. E anche le proposte concrete. Va bene, grazie Paolo Buzzetti. Francesco La Massa Carrara, ce lo fai in 10 secondi a dire una cosa? Prego Francesco. Sì, salve. Sì. Sostanzialmente quello che emerge da quello che ci stavamo dicendo è che cosa effettivamente accade in questi appalti. Sì. Sembrano fatti apposta per moltiplicare i costi. I veicoli speciali secondo me hanno questo fortissimo rischio, e quando da 800 milioni passiamo a 7 miliardi per fare un'opera, è chiaro che chi c'ha i flussi in mano è un'enorme cassetta delle offerte che fa venire gli appetiti. Comunque, continuate su Radio 24, grazie a Paolo Buzzetti, appuntamento con me a domani, sempre su questo.